Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Giacomo 4:6. Come hanno confessato altri, anch'io non sono idoneo per trattare l'argomento dell'umiltà. Ma tacere su questa importante virtù non ci rende più umili. Anzi, nell'esaminare questa virtù, è possibile far uscire degli scheletri dagli armadi, può solo fare del bene, perché chi pensa di non comportarsi da orgoglioso può verificare se è vero oppure no. Noi uomini siamo pronti a rabbrividire per un peccato come l'omicidio o l'adulterio, ma non vi è peccato maggiore dell'orgoglio. Esso nasce direttamente dall'inferno. La riflessione dello scrittore Lewis è alquanto acuta. Secondo i maestri cristiani, il vizio per eccellenza, il male peggiore è l'orgoglio. In confronto a questo, l'impurità, la collera, l'avarizia, l'ubriachezza e via dicendo non sono che punture di zanzare. L'orgoglio è un peccato che è condannato da tutti, mentre pur rifiutando ciò a cui una persona aspira, ne possiamo ammirare l'ambizione, perché essa, se rivolta alle cose giuste, è una virtù. L'orgoglio non lo apprezziamo per nessun motivo, non è mai positivo. Questo fatto fa sì che noi siamo ammiratori dell'umiltà, siamo volti verso di essa e agiamo da umili. Ma è proprio questo il dramma. Abbiamo imparato ad affermare che siamo peccatori. Abbiamo imparato a dare la precedenza. Abbiamo imparato a sederci all'ultimo posto. Abbiamo imparato a servire prima gli altri. Abbiamo imparato a confessare che non siamo umili, senza che tutto ciò proceda da vera umiltà. Dal momento in cui Gesù pronunciò la parabola del fariseo e del pubblicano, tutti i farisei pregarono con le parole del pubblicano. Non appena si ritiene di sapere che cosa si debba chiedere e in che modo si debba pregare per assumere l'umile atteggiamento del pubblicano, si diventa nuovamente dei farisei. In definitiva, abbiamo imparato a comportarci umilmente al punto che siamo arrivati a pensare che non siamo orgogliosi mentre l'orgoglio è radicato nella nostra natura. E è stato detto che nel corpo di Cristo le persone si trovano separate le une dalle altre, non tanto perché hanno peccato, ma perché hanno troppo orgoglio per ammetterlo, non sono divise a causa di un disaccordo teologico, ma perché sono troppo orgogliose per imparare gli uni dagli altri. L'orgoglio è uno dei peccati che dobbiamo combattere tutta la vita. Possiamo smettere certi vizi, possiamo arrivare a vincere certe passioni come i dolci, lo sport, la musica, ma l'orgoglio non lo sradicheremo mai, perché è intrinseco nella natura trasmessaci da Adamo ed Eva che volevano essere niente meno come Dio. L'umiltà non è una virtù che si può conquistare, ma un viaggio da compiere, un cammino da percorrere. L'umiltà ha una caratteristica strana. Nel momento che pensiamo di possederla, la perdiamo. Mentre un vizio, nel momento in cui lo vinco, è stato sconfitto, quando mi accorgo di essere umile, l'orgoglio già ha preso il sopravvento. Una vignetta umoristica. Una bambina testimonia davanti alle sue amiche: ho smesso di essere orgogliosa nel momento che ho compreso di essere perfetta. La necessità dell'umiltà. Ho spesso pensato alla differenza fondamentale tra la vita terrena e quella celeste. La vita celeste si differenzia da quella terrena, dal fatto che essa sarà priva di necessità. Noi ora abbiamo bisogno di tutto: mangiare, bere, dormire, lavorare, di respirare, di pace, di amore. Necessitiamo di ogni cosa. Abbiamo bisogno di Dio e del suo intervento, eppure molte cose non le abbiamo. Questo, secondo la Scrittura, è perché Dio resiste ai superbi mentre dà grazia agli umili. L'umiltà non è una virtù per la quale meritiamo qualcosa, ma essa spinge Dio a farci grazia. E grazia vuol dire dono immeritato. Dio non ha detto che darà grazia all'uomo forte, a colui che ha talento, al sapiente, a colui che ha esperienza, conoscenza, che fa grandi cose, che ha un bel carattere, ma all'umile. Dice l'Eterno: ecco su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Isaia 66, 2. Un bellissimo esempio di come la grazia è data a chi è umile è stato il re Acab. Egli era il più malvagio re di Israele, eppure quando si è umiliato Dio gli ha fatto grazia non facendo venire la sventura che aveva promesso durante la sua vita. 1 Re 21. 27-29. L'umiltà è il tallone di Achille di Dio. Davanti ad un uomo umile Dio è disarmato, inerme, indifeso. Consideriamo quando il vanto non è orgoglio. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Romani 12:3. Siamo talmente abituati a recitare la parte degli umili che una persona con un comportamento umile è tacciata spesso per orgogliosa. In fondo pensiamo che una persona umile sia smidollata, senza carattere, accondiscendente in tutto. Non contraddice mai, non è mai sicura di niente. Approvo pienamente questa definizione dell'umiltà. La prima prova che un uomo sia veramente grande è quando è umile. Non intendo per umiltà che egli debba dubitare delle sue capacità o esiti a esprimere le sue opinioni, ma che egli abbia una giusta comprensione della relazione tra ciò che egli può fare e dire e ciò che il mondo può fare e dire. Tutti i grandi non soltanto sanno il loro mestiere, ma in genere sanno anche di saperlo. Non solo hanno ragione in ciò che pensano, ma di solito sanno anche di averla, soltanto non se ne vantano. Soltanto, essi non chiedevano che i loro simili si buttino ai loro piedi per adorarli. Quasi senza rendersene conto, essi hanno un curioso senso di incapacità, sentendo che la potenza non è in loro, ma che si esercita per mezzo di loro, ed avendo coscienza che non potrebbero essere diversi da come Dio li fece. Per confermare questa definizione dell'umiltà ricordiamo due episodi della Scrittura e un'affermazione di Gesù per dimostrare che umiltà non è sinonimo di inettitudine. 1. Quando Paolo difende il suo apostolato davanti ai Corinzi, afferma di non essere da meno di coloro che si definivano apostoli. Quando considera che essi erano dei servitori di Cristo, egli afferma di esserlo più di loro. 2 Corinzi 11:23. Eppure era consapevole di essere il minimo degli apostoli. 1 Corinzi 15:9. Inoltre, che dire quando testimonia di aver servito Cristo con umiltà? Atti 20:19-2. Quando Davide si trova ad assistere per caso la scena di Golia che disprezzava gli israeliti, perché nessuno aveva il coraggio di affrontarlo, egli accettò la sfida. Ma suo fratello, indignato, gli disse: «Perché sei sceso qua? Io conosco il tuo orgoglio e la malvagità del tuo cuore». Davide, nella sua umiltà, fece finta di non sentire e andò a combattere. Spesso un atto di fede può passare per orgoglio, come quando chi afferma di avere la vita eterna perché crede alle promesse di Gesù. 3. Gesù disse: «Imparate da me che sono umile di cuore». Se chi afferma di essere umile cessa di esserlo, allora Gesù è stato orgoglioso. Se consideriamo la sua vita, essa potrebbe benissimo essere vista in quest'ottica. Era nervoso. Era scortese. Era settario. Era senza rispetto. Ammoniva i farisei chiamandoli ipocriti. Era ingrato. Era maleducato. Era pignolo. Lo invitavano a mangiare e lui faceva la morale a chi lo ospitava. Chiede a Zaccheo di andare a casa sua. Uno lo chiama buono e lui puntualizza: «Perché mi chiami buono?». Tutto questo non ha certamente ombra di umiltà, eppure era l'umiltà che lo spingeva ad agire così. Cacciava i cambiamonete dal tempio. Si rifiutava di fare miracoli. Si rifiutava di guarire la figlia di una straniera. Come riconoscere allora l'orgoglio sotto le spoglie dell'umiltà? Questo è l'aspetto dell'umiltà più difficile da trattare, sia perché è delicato, sia perché ci si può dilungare in centinaia di esempi. Proprio per questo mi limito di vedere la mancanza di umiltà in un solo aspetto, la riprensione. Proverbi 12:1. Chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Tutti prima o poi siamo da riprendere, perché nessuno è perfetto, ma non tutti reagiamo nella stessa maniera. Dio ci avverte che colui che odia la riprensione, cioè non è disponibile ad essere ripreso, è uno stupido. E quando Dio chiama stupida una persona, essa è veramente stupida. Ecco un commento di Giovanni Crisostomo: dobbiamo dire spesso a Dio di essere propizio verso noi che siamo peccatori. Ma non basta dirlo, bisogna esserne convinto e se qualcuno ci chiama così, noi ci adiriamo. Noi diciamo, Signore, sono un peccatore, ma se ce lo dice un altro, noi ci indispettiamo. Se noi diciamo tanto male di noi stessi e poi quando ce lo sentiamo dire da un altro ci indispettiamo, questo non è un'umile confessione ma ostentazione vanagloriosa. Siamo pure vanagloriosi quando ci stimiamo peccatori. Perché? Perché siamo stimati, umili, ammirati e lodati? Invece se parlassimo bene di noi saremmo disprezzati. Ma se un altro ci dice una sola cosa ci offendiamo. Vedi che non è una reale confessione. Hai detto che sei così, non averne a male se lo dicono gli altri, e si ti rimproverano. Vedi che stai facendo una commedia di cose serie? Infatti, rifiutiamo le lodi per il desiderio di lodi maggiori, per ottenere elogi sempre più grandi e per venire ammirati sempre più. Quando noi accettiamo le lodi lo facciamo perché crescano ancora e si fa tutto per vanagloria, senza sincerità. In conclusione tu dici un cumulo di mali sul tuo conto. E se in cambio non ricevi le lodi che spettano i grandi, vai sulle furie. La riprensione è quindi un mezzo molto valido nelle mani di Dio perché impariamo e rimaniamo umili. Sta scritto nel libro Imitazione di Cristo e, vantaggioso che ci si contraddica, che si pensi male o meno bene di noi, anche se retto sia il nostro agire e rette le nostre intenzioni. Ciò serve a conservarci umili e ci premunisce dalla vanagloria. Si è più portati a cercare la testimonianza interiore del Signore quando i nostri simili ci disprezzano palesemente e non pensano bene di noi. È molto importante per un credente trovare opposizione e disprezzo, perché se è vero che abbiamo bisogno di incoraggiamento è altresì indispensabile che un figlio di Dio venga anche disprezzato e schernito quando compie la volontà di Dio. Questo lo mantiene umile affinché cammini con umiltà. Eppure, per uno strano processo mentale, noi seguaci di Cristo vogliamo essere diversi dal nostro Maestro. Egli era Dio, lasciò la gloria per noi. Noi siamo fieri dei nostri natali. Egli nacque in una stalla per noi. Egli fece l'apprendista di un mestiere manuale. Noi siamo fieri delle nostre case. Egli non aveva dove posare il capo. Noi corteggiamo gli altolocati. Egli visse 3 anni con umili pescatori. Noi amiamo frequentare i circoli dei ricchi. Egli si compiaceva di stare con le prostitute. Noi agiamo di nostra testa. Egli disse, io sono fra voi come colui che serve. Noi ci curiamo della nostra reputazione. Egli non aveva né bellezza né splendore. Gesù disse che nessun discepolo è da più del suo maestro. Anzi, ogni discepolo ben addestrato è come il suo maestro. Se vogliamo ottenere la grazia di essere come Gesù Cristo, allora l'umiltà è più che indispensabile. Il nostro Dio dice tramite il profeta Isaia, così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo, ma sta vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi, Isaia 57,15. Questa è una promessa meravigliosa, Dio che è trascendente e con colui che è umile. Siamo noi umili? Alcune domande poste in un convegno sull'umiltà possono aiutarci a fare un esame introspettivo. 1. Mi dispiace molto quando gli altri non mi prestano molta attenzione? 2. Continuo a ripetere a me stesso che in fondo sono una brava persona? 3. Ritengo che uno dei compiti principali sia quello di osservare gli altri con occhio critico? 4. Provo un senso di intima soddisfazione nel far conoscere le mie idee? 5. Sto sempre sul chi vive facendo del mio meglio per salvare la mia reputazione? 6. Considero certi compiti al di sotto della mia dignità? 7. Cerco sempre di considerare cose e situazioni sotto il mio punto di vista per il mio tornaconto? Sono domande queste, tese a considerarci quali siamo. Nel Salmo 22,6 leggiamo: io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato del popolo. E, risaputo che il Salmo 22 è un salmo eminentemente profetico, perciò queste parole sono da considerarsi come dette da Gesù. il quale si è considerato un verme il massimo dell'umiltà e dell'abbassamento. Sì, perché un verme non ha piedi che lo trasportano in luoghi degradanti o per scappare dalle difficoltà. Un verme non ha spina dorsale né volontà sua, ma deve confidare completamente nel suo creatore. Un verme non ha alcuna bellezza di cui vantarsi. Un verme non ha sentimenti che si possono urtare, non fa la vittima. Un verme non si lamenta, scodinzola un po' se viene ferito e poi continua per la sua strada. Un verme senza forza non ha alcuna possibilità di proteggersi o di sfuggire al pericolo. Un verme diventa cibo per gli uccelli, viene calpestato dagli uomini, è pronto per il sacrificio. Un verme è sempre occupato, nascosto sottoterra e non riceve complimenti per quello che fa e di cui nessuno si accorge. Eppure è la più grande benedizione per la flora, vive esclusivamente per gli altri. Egli si ciba della terra, si ingrassa di essa, la lavora e la trasforma in un terriccio fertile, cosa che l'uomo non è ancora in grado di fare. È una delle creature più scartate ed è una delle creature più utili e meno permalosa. Gesù si è paragonato ad un verme, ad uno degli animali più insignificanti ma indispensabile. Lo scrittore Lewis disse: Dio non è orgoglioso, si abbassa per conquistare, ci vuole avere anche se ci rivolgiamo a Lui solo perché non abbiamo trovato niente di meglio. Non è certo un compimento per Dio che noi lo scegliamo come alternativa all'inferno, eppure Lui accetta anche questo. Un simile amore coniugato all'umiltà non conquista il nostro cuore. Senza l'umiltà non si può essere in sintonia con colui che è umile. Senza umiltà non vi è gioia. Senza l'umiltà non si può ricevere la pienezza di Dio. O Signore, Tu esaudisci il desiderio degli umili. Tu fortifichi il cuor loro, porgi il Tuo orecchio. Salmo 10 e 12. L'umiltà, per sua natura, riceve sempre. Come l'acqua cerca sempre i posti bassi per riempirli. Così è lo Spirito di Dio. Se non ricevi è perché sei troppo in alto. Pascal disse, la conoscenza di Dio, senza quella della nostra miseria, produce l'orgoglio. La conoscenza della nostra miseria, senza quella di Dio, produce la disperazione. La conoscenza di Gesù Cristo rappresenta il giusto mezzo, perché troviamo e Dio e la nostra miseria. Abbiamo considerato cos e l'umiltà, e quando il vanto non è orgoglio, ora prendiamo in esame quando l'umiltà non è umiltà. La razza umana può essere divisa in due grandi categorie, religiosi e non. Poiché coloro che non sono religiosi non hanno il problema morale dell'orgoglio, è ovvio che considerare quando l'umiltà non è umiltà è utile principalmente ai religiosi. Le persone religiose sono coloro che credono in un essere supremo, la cui moralità e santità è a loro superiore. Non essendo esse capaci di vivere secondo questo modello, accusano un senso di colpa. Si sentono, in altre parole, peccatori. Anche coloro che credono nel Dio che ha creato i cieli e la terra, il Dio del popolo di Israele, Yahweh, coloro che credono nel Padre del nostro Signore Gesù Cristo, si rendono conto d'essere peccatori. Da un lato il problema del peccato è stato risolto alla radice, giacché essi credono che l'opera espiatoria di Cristo sia sufficiente per renderli giusti al cospetto di Dio, secondo quanto Egli ha dichiarato nella sua parola. Da un altro lato, conoscendo la santità di Dio, si rendono conto di quanto essi siano mancanti, come ogni altra persona religiosa. Questa situazione fa sì che nelle preghiere i credenti confessino di essere dei peccatori. E è proprio questo tipo di preghiera che desidero esaminare, perché confessare di essere dei peccatori vuol dire tutto e non significa niente. Il giovane confessa di essere un peccatore e, in fondo, pensa ai propri istinti sessuali che non sa controllare. Il marito confessa di essere un peccatore e ha presente il suo egoismo verso la moglie. La moglie, dal canto suo, nel confessare che è una peccatrice, pensa alla mancanza di pazienza verso figli. Conclusione. Quando un figlio di Dio confessa di essere un peccatore, ha generalmente presente alcune sue mancanze nei confronti di Dio. Succede però che, con il trascorrere del tempo, Il giovane arriva a controllare i propri istinti, il marito diventa più altruista, la moglie più paziente, e quindi queste mancanze diventano dei rari incidenti nella vita del credente. Nelle loro preghiere, però, continuano a confessare di essere peccatori. Ed è così che anche un figlio di Dio diventa abitudinario e formalista. Tale preghiera è biblica, ma nella mente di chi la pronuncia non c'è è più quella convinzione di peccato che c'era all'origine. Nulla di grave se questa situazione non condizionasse il suo giudizio riguardo se stesso e gli altri. Non essendoci più la convinzione di peccato, il credente diventa presuntuoso, permaloso. Le osservazioni pungenti a lui rivolte le ritiene fuori posto. Il suo giudizio verso il prossimo è senza remissioni. A questo punto la situazione diventa critica, pericolosa ed infetta la vita spirituale dello stesso credente e di coloro che lo circondano. Credenti permalosi, che si allontanano dalla comune adunanza, che sono una palla al piede alla crescita spirituale della Chiesa e che si spera di non incontrare, ce ne sono ovunque. Coniugi feriti che impediscono un normale matrimonio, ce ne sono fin troppi. Solo un intervento divino può rimettere le cose a posto. E per intervento non si intende il miglioramento della vita cristiana, anche se l'effetto sarà questo. Sarà piuttosto un'azione efficace dello Spirito Santo utile a convincere il cuore e la mente del credente che il suo stato di peccatore non è dovuto al fatto che egli pecca più o meno abitualmente nelle sue azioni, o nei suoi pensieri, o nelle sue parole. Esso, invece, gli deriva dall'avere ereditato, in qualità di appartenente alla razza umana, un'inclinazione a fare ciò che è contrario al volere di Dio. Tale convinzione si raggiunge solo per rivelazione e non solo a livello intellettuale. Ciò è un dono di Dio. Colui che ha ricevuto questo dono si renderà conto che, se egli desidera qualcosa di buono, è solo in virtù del frutto della persona dello Spirito Santo che agisce in lui. Al contrario, tutto ciò che egli desidera di malvagio è solo il risultato della sua natura, altrettanto malvagia, ricevuta dalla nascita naturale. Le aspirazioni della carne conducono a morte, mentre le aspirazioni dello spirito sono vita e pace, poiché i desideri della carne sono inimicizia contro Dio, Romani 8, 6 a 7. Queste parole dell'Apostolo Paolo sono inequivocabili. Il dramma di molti credenti è proprio quello di dichiararsi peccatori senza esserne convinti dallo Spirito Santo. Si può confessare di essere dei peccatori, predicare, pregare, leggere la Bibbia, evangelizzare, essere servitori del Signore, lavorare per una missione e, non convinti di essere irrimediabilmente malvagi e capaci di ogni orribile azione. Negli ultimi tempi gli uomini avranno la forma della pietà, ma ne rinnegheranno la potenza. Noi siamo negli ultimi tempi. Abbiamo imparato ad umiliarci senza esserne convinti. Che la preghiera del salmista possa essere sempre presente nel nostro cuore. O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono effimero. Salmo 39,4. Il salmista chiese di sapere e di conoscere se stesso. O viviamo nell'indifferenza, o facciamo la differenza. L'umiltà è quella che decide. Luglio 2004, Ellero.